Letture di Radio 24. La battaglia civile intrapresa dalla famiglia di Stefano Cucchi per ottenere giustizia diventa una disputa giudiziaria con 13 indagati tra agenti penitenziari, personale medico e ministeriale. Ma c'è il rischio che i parenti della vittima e lo Stato procedano su strade parallele. Un anno fa, quello che resta della famiglia Cucchi si è ritrovato in una camera mortuaria intorno al cadavere sfigurato di Stefano. Il figlio maschio, arrestato una settimana prima, è spirato nel reparto carcerario di un ospedale, senza che madre, padre e sorella ne sapessero nulla. Da quel momento sono cominciati lo strazio, ma anche la battaglia civile di Ilaria Cucchi e dei suoi genitori, Rita e Giovanni, per elaborare il lutto e dare senso a una morte crudele e inspiegabile. Stefano è stato preso vivo e restituito morto da rappresentanti dello Stato per cause e colpe che ancora non sono state chiarite. Invece è proprio questo che giustamente pretende la famiglia Cucchi e insieme a loro tutti quei cittadini che non intendono rassegnarsi a vivere in uno Stato ostile, refrattario rispetto ai loro diritti. La verità su quella fine assurda. Ora la battaglia civile si è trasformata in disputa giudiziaria. Ci sono 13 persone, agenti penitenziari, personale medico e ministeriale, meno di quelle che i familiari di Stefano avrebbero voluto, per le quali i pubblici ministeri hanno chiesto il processo. Si discute sui reati contestati ed è cominciata l'abituale battaglia di perizie e controperizie. Nuovi accertamenti chiesti dalla parte civile, per adesso, sono stati negati. Come ovvio, gli imputati si difenderanno con ogni mezzo, ma da alcuni passaggi si intravede il rischio che pubblica accusa e parenti della vittima procedano su strade diverse e addirittura contrastanti. Speriamo che non accada e che Ilaria e i suoi genitori non debbano trovarsi ancora una volta sul fronte opposto alle istituzioni. È già successo nei 6 giorni del mistero, quando Stefano è passato da caserme dei carabinieri, camere di sicurezza, carcere e ospedale, senza che i suoi parenti fossero minimamente informati di come la sua situazione stesse degenerando. I genitori erano dietro una porta e non li lasciavano entrare, mentre dall'altra parte il figlio stava esalando gli ultimi respiri. E subito dopo, quando si è parlato di decesso per cause naturali. Adesso la famiglia Cucchi chiede che lo stesso Stato che lo aveva in custodia restituisca a Stefano almeno un po' di dignità, facendo tutto il possibile e il necessario per arrivare all'individuazione e alla condanna dei responsabili. È l'unico modo attraverso il quale si possa elaborare il lutto, non solo quello privato della famiglia Cucchi, ma il lutto collettivo di una società che di fronte a una morte tanto oscura non può tollerare l'impunità e l'oblio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanni Bianconi, Lo Stato contro i Cucchi, dal numero 43, 28 ottobre, del Magazine 7. Letture di Radio 24. Mentre in Cina nei giorni scorsi è stato inaugurato un treno che viaggia a 350 km all'ora, i pendolari delle Ferrovie Nord viaggiano a una media di 30 km all'ora, quando va bene. Meno di quanto faceva la locomotiva di Stephenson, quasi 2 secoli fa. Le Ferrovie Nord gestiscono in esclusiva il trasporto su rotaie in una vasta area della Lombardia e da decenni costringono i pendolari a viaggiare in condizioni disumane, pigiati come bestie. La linea peggiore è quella che collega Asso a Milano, con i treni perennemente in ritardo e carrozze dove manca l'aria. Rimborsi praticamente inesistenti e nessuna scusa per i ritardi, né informazioni di alcun tipo. E quando viene chiamata in causa, la dirigenza accampa sempre le solite scuse e rilancia promesse che puntualmente non vengono mantenute. Chi si lamenta giustamente dei ritardi delle linee regionali di Trenitalia dovrebbe provare a viaggiare con le Ferrovie Nord per capire cosa significhi un vero disservizio pubblico. Manca l'aria, i vetri sono appannati, l'impianto di condizionamento non funziona, non ci si muove. Nemmeno per far passare una ragazza con il pancione, costretta a sgusciare fra impiegati e studenti, ma è inutile. Deve fermarsi sui gradini che portano al secondo piano, il treno è strapieno, sopra e sotto. Neanche le bestie viaggiano in queste condizioni, attacca Filippo, cliente fisso di questo diretto in arrivo da Asso per Cadorna. Lui fa il grafico in zona fiera, sale a Meda alle 7.21 per essere a Milano poco prima delle 8. È quasi sempre in ritardo, anche di 20 minuti, quando non lo cancellano, e a quest'ora è un guaio perché è tutta gente che va a lavorare. Ma il problema più grave ormai non è quando arrivi, ma come arrivi. Le carrozze sono vecchie, i finestrini non si aprono e si viaggia ammassati da quando sali fino a destinazione. Una compagna di viaggio raddoppia la protesta con il resoconto dell'andata di lunedì. Stesso tragitto, treno successivo, con partenza da Meda alle 7.51. C'era una carrozza allagata. Avevano messo due foglietti all'interno con scritto «Vietato entrare», ma li abbiamo visti quando ormai eravamo con i piedi nell'acqua. E non è la prima volta. Le testimonianze dei pendolari sono simili. Cambiano i toni, il livello di rabbia, stanchezza, rassegnazione. «È sempre così», dicono. Ci siamo abituati anche a vedere la gente svenire perché a volte non si respira. E ancora, nelle giornate peggiori c'è un clima da rivolta. Il caso della ASO Milano, che raccoglie i pendolari della Brianza, è noto anche alle ferrovie. È una delle linee più critiche, dicono, ma è anche una delle più attenzionate. Gli investimenti sono stati fatti e si stanno facendo. Negli ultimi 10 anni abbiamo speso 100 milioni di euro in infrastrutture, perché è una linea vecchia con un lungo tratto a binario unico e molti passaggi a livello, fa sapere l'ufficio stampa di Trenitalia alle Nord. Linea difficile e sovraffollata. Servirebbero più treni. Non ce ne sono. Quel diretto porta un migliaio di pendolari, ha 7 carrozze. Non possiamo aggiungerne altre perché non ne abbiamo. Tutto il materiale rotabile a disposizione è in servizio, è la spiegazione. Abbiamo finanziato e programmato interventi per 1 miliardo di euro. Avremo 157 nuovi treni entro il 2014. Ma i viaggiatori sono in aumento. Avevamo 500.000 passeggeri l'anno scorso, ora sono 600.000. Ci rendiamo conto del disagio, ma facciamo fronte a una domanda che è in costante crescita. Ci serve tempo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Federica Cavadini, I forzati della rotaia, trattati come bestie, dal Corriere della Sera del 28 ottobre. I blog sono un fenomeno già passato di moda? Anche se continuano a proliferare, i blog hanno ormai perso quella portata modaiola e rivoluzionaria che sembravano avere fino a un anno fa, come scrive Alberta Marzotto su Affari e Finanza. Ormai è chiaro, la rivoluzione nella moda non passerà attraverso i blog. Sempre poi che la rivoluzione si possa ancora fare con la dilagante marea di concessioni e licenze in guardaroba e non. In ogni caso, non è la rete a istigare nuove dinamiche di pensiero o a guidare il nuovo che avanza. Solo un anno fa sembrava il contrario. Tanto è bastato al sistema per addomesticare i facinorosi con il solito contentino, i 15 minuti di fama predetti a tutti dal buon Andy Warhol, e infine annientarli. Intendiamoci, i blogger non sono scomparsi dalla faccia della terra, anzi, proliferano come le cavallette bibliche, perché un blog di successo di questi tempi è la superstrada che conduce in un battibaleno dalla cameretta del nerd alla prima fila ultra glamour. In giro per Fashion Week, a Milano come a Londra, a Parigi come a New York, sono addirittura di più i blogger fotografi, figli tutti del sartorialist, dei soggetti da ritrarre, e di più gli scrittori improvvisati, guidati dallo spocchioso Brian Boy, dei professionisti di settore. Per carità, ben venga l'entusiasmo amatoriale, a patto d'essere accompagnato da vero spirito critico che invece è spesso assente. Sul blog, infatti, l'unica equivalenza che conta è quella tra strano e bello. Qualsiasi oggetto bizzarro diventa un must. I look balzani sono eletti a modello di riferimento. Tant'è. Il problema vero, però, è un altro. Nati in opposizione all'ego di designer e giornalisti, i blog hanno creato nuovi superego, quelli dei blogger, non meno dispotici e mostruosi. Non a caso i più abili si sono infiltrati con facilità nell'establishment modaiolo. Brian Boy fa ormai coppia fissa con Franca Sozzani, ad esempio, assumendone i modi mentre ammorbano il cyberspazio di note, foto e riflessioni futili. Come se a qualcuno interessasse quante scarpe ha Susie Bubble o i giudizi di stile del malvestito sartorialist. Lo spazio tra il personale e il collettivo è annullato. A vincere sono sempre i prodotti, non le idee. Le rivoluzioni, invece, hanno bisogno di nuove prospettive mentali, prima ancora che materiali. Ne riparliamo al prossimo giro, o no? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberta Marzotto «Ecco perché è fallita la rivoluzione dei blogger». Da Repubblica Affari e Finanza del 25 ottobre.